Allora, come sempre, prima di tutto non smetteremo mai di ricordarlo, per molte donne stare a casa non è affatto rassicurante. Quindi ringraziamo la rete Dire che sta garantendo l'attività delle case d'accoglienza non senza difficoltà, e segnaliamo il numero su Milano che si riferisce al CADMI, che è 02 55 01 55 19. Poi segnaliamo il canale Telegram di Obiezione Respinta, che invece continua a segnalare gli ospedali dove si garantisce l'interruzione volontaria di gravidanza. Il canale Telegram è t.me/aborto_, cioè underscore, emergenza Covid-19. Inoltre, mi raccomando, continuate a contribuire alla radio, alla nostra radio, inviando audio sulla mail che è nonunadimenomilano@gmail.com, e seguiteci sui canali social che sono, come già sapete, nonunadimenomilano con un trattino o un puntino in mezzo. Make your ass a donut. How deep is your love for me, baby? Ok, allora dicevamo rent strike, ovvero tutte le pratiche, i materiali e le risorse in un certo senso che si stanno producendo, no, per organizzare lo sciopero degli affitti e il blocco delle utenze. Comincio da una frase che apre il sito italiano di sciopero degli affitti, che è scioperodegliaffitti.noblogs.org, e che dice: come altre migliaia di inquilini e inquiline, siamo rimasti privi delle nostre fonti di reddito per questa crisi. Il governo offre aiuti, sospensioni e riduzioni su mutui e affitti di locali commerciali, ma niente per privati in affitto. Cosa fare se non riusciamo a pagare l'affitto della casa in cui viviamo, in cui siamo obbligati a rimanere per evitare che si diffonda l'epidemia? Allora, qui si apre subito, a mio avviso, un tema centrale, che è quello della cura, anzi, della profondità della cura. Infatti, come diciamo, diciamo in ogni puntata, si apre un po' questo tema di come la cura, questa pratica che non è mai individuale, no? E di cui ognuno di noi ha bisogno, è sempre un lavoro e quindi anche una lotta. Infatti, da una parte c'è appunto questa assunzione, no, collettiva di restare a casa affinché non si diffonda l'epidemia, quindi questa cura collettiva rispetto ai danni che può provocare, alle morti nello specifico, che può provocare l'epidemia. Dall'altra invece uno stato paternalista che ci infantilizza da 2 mesi a questa parte. Non ultimo, non so se l'avete ascoltato, il discorso di ieri sera di Giuseppe Conte, il quale ci introduce a questa famosa fase 2 come un padre che rimprovera, facendo leva sui nostri sensi di colpa invece che dirci dati, strategie e investimenti e interventi sul modello di cura che il governo ha deciso, se l'ha deciso, per permetterci di entrare in questa fase 2 in sicurezza. L'idea è, infatti, mi sembra che siamo proprio incapaci, poveri di mezzi, che non sappiamo autodeterminarci o acquisire saperi e autoregolarci. Per queste ragioni, infatti, tutto il discorso gira sul cosa non si può fare. Eppure sappiamo che la cura che abbiamo agito in questi mesi, restando a casa o rischiando la vita in corsia e o in fabbrica, non è stata affatto né orizzontale né ricambiata, no? Con la chiusura delle aziende, infatti, delle scuole e di innumerevoli altre istituzioni, penso anche a quelle della cultura, un sacco di persone, tra l'altro in tutto il mondo, stanno affrontando oggi la perdita di reddito, di alloggio e di accesso a delle risorse proprio basi di sopravvivenza, come per esempio il cibo. L'Italia, come alcuni altri stati, hanno sì certamente iniziato a intraprendere, diciamo, poche e contraddittorie misure di aiuto, ma le condizioni di emergenza si stanno intensificando sempre di più e queste soluzioni non rispondono affatto alla condizione reale di milioni di persone. In più, bisogna dire che l'impossibilità di incontrarsi fisicamente incomincia a pesare parecchio e in queste circostanze diciamo che c'è un po' la necessità di chiaramente di costruire infrastrutture auto-organizzate di mutuo soccorso, di cura, di lotta e certamente di resistenza. Questo perché nei prossimi giorni, settimane e mesi lo sciopero dell'affitto, come tanti altri, diciamo, atti di rifiuto collettivo, devono diventare un orizzonte comune per riprendersi un po' ciò che ci spetta, ovvero quella cura di cui abbiamo bisogno e che resta sempre un po' sottomessa agli interessi del capitale e alla necessità di riattivare velocemente la macchina produttiva a qualunque costo e senza nessuna, diciamo, selezione, come se un'epidemia globale non avesse scalfito di un millimetro tutti i parametri devastanti che l'hanno procurata. Ora voglio lanciare una specie di intro jingle, che è la prima, diciamo, contributo audio che ci è arrivato sul tema del diritto alla casa, fatto da Ciurma Lab del Forte Prenestino, che ci racconta un po' come lo sciopero degli affitti non nasce oggi, ma ha una storia molto lunga. Se non ci pagano, noi non paghiamo. Vuoi sapere la procedura? Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. L'emergenza legata alla pandemia in atto ha posto in essere numerose problematiche socio-economiche. Una tra le molte, quella legata alla difficoltà di pagare un affitto. Ma perché mi volete appioppare la roba? Io questo non capisco! Non è la prima volta, storicamente, che il tessuto sociale si organizza, più o meno spontaneamente, dando vita ad uno sciopero degli affitti. Io la roba dice, la pagai nell'81, maledetto quel giorno che la venne a comprare da lei, porco! Nel 1901, in Irlanda, lo sciopero dura oltre un anno.

Alcune delle conseguenze di questo sistema sono state la crescente precarietà abitativa, l'esercito dei sfrattati e delle sfrattate e senza tetto, e infine intere generazioni, le ultime, che non avranno mai, diciamo, una casa propria. Bisogna dire che fin tanto che l'edilizia abitativa continuerà a essere, diciamo, considerata una risorsa privatizzata, questi problemi non se ne andranno. Allora, l'affitto arriva ogni mese e copre una parte sostanziale del nostro stipendio, che di fatto passa al padrone di casa. L'affitto è generalmente percepito come una questione di accordo bilaterale fra due attori del mercato, il proprietario e l'inquilino. Ma affittare una casa non equivale ad affittare, che ne so, una bicicletta o uno yacht, e dovrebbe, a mio avviso, essere soggetto a rigide normative. Alcuni stati e alcune municipalità locali, in alcuni casi, applicano il controllo del prezzo sugli affitti, che protegge gli inquilini dallo sfratto e soprattutto dall'aumento dei prezzi. Ovviamente questo controllo degli affitti è fortemente osteggiato, diciamo, dai grandi proprietari, no? Che si estengono con fare minaccioso che laddove le amministrazioni applicano il controllo degli affitti, gli investitori non investiranno più in nuove abitazioni su quel territorio. Ciò però non è mai stato dimostrato. I gruppi e sindacati degli inquilini invece sono spesso organizzazioni ampie che si uniscono intorno a un concetto unico, principale, fondamentale, ovvero quello del diritto alla casa. E a proposito di gruppi organizzati, lancio il secondo contributo, che viene dal Movimento per il diritto all'abitare di Roma. Come Movimento per il diritto all'abitare di Roma sicuramente disponiamo di un osservatorio particolare sulla crisi che stiamo attraversando. Moltissime delle famiglie che si sono organizzate con noi negli anni sono famiglie che si sono ritrovate in emergenza abitativa e nell'impossibilità di pagare un affitto e accedere alla casa popolare a seguito dell'emergenza abitativa che si è prodotta dopo la crisi del 2008. Una crisi della quale continuiamo ad avvertire l'onda lunga dentro i nostri territori. È infatti importante sottolineare che negli anni, potremmo dire insomma un decennio di distanza dall'inizio della crisi, il numero degli sfratti per morosità incolpevole è sempre rimasto estremamente elevato. Nell'anno precedente ci sono stati oltre 6.000 provvedimenti di sfratto esecutivi dentro la città di Roma, e negli anni precedenti i numeri sono stati ancora più elevati. Su questa situazione, quindi già alquanto critica, si innesta la situazione, insomma, della crisi che si produrrà a seguito di questa emergenza Covid, che mette in luce in modo chiaro e inequivocabile, a latere dell'emergenza sanitaria, la questione della casa e la questione del reddito. È infatti del tutto chiaro come sia impossibile essere osservanti dello slogan "restiamo a casa" e avere la propria salute garantita senza un alloggio. Tuttavia non abbiamo registrato da parte delle istituzioni in questo periodo la consapevolezza necessaria e la messa in campo di strumenti adeguati per affrontare la crisi che si sta già palesando. Lo dimostrano il tenore delle dichiarazioni del ministro dell'Interno Lamorgese, che ha posto la questione abitativa come una delle emergenze più pregnanti, ma affrontandola ancora una volta come una materia di ordine pubblico e non come un fatto politico e di ordine sociale che richiede la messa in campo di strumenti adeguati. Abbiamo visto infatti da un lato l'utilizzo dello strumento agli affitti, del contributo agli affitti, che storicamente insomma non ha mai avuto una reale efficace utilità nei nostri territori, così come lo strumento del reddito di emergenza, che doveva essere previsto all'interno del decreto di aprile, ormai maggio, si appresta ad essere in qualche modo tardivo, e temiamo che allo stesso modo dei contributi locali per la spesa, che già di per sé sono insufficienti, che andrà a tagliare fuori tutte quelle persone con soluzioni alloggiative precarie che ad esempio non possono garantire una residenza, magari avendo un affitto in nero o abitando insomma in soluzioni alloggiative di fortuna. Per questo, insomma, ci siamo mossi e mosse fin dall'inizio di questa crisi per trovare strumenti collettivi che ci permettessero di affrontare questa situazione. Abbiamo aderito fin da subito alla campagna, prima internazionale, poi locale, del Rent Strike, partecipando alle assemblee telematiche che si sono susseguite, che si sono confrontate sugli strumenti da mettere in atto. Già all'inizio, insomma, di questa quarantena e di questa crisi, insieme al sindacato Asia USB e a Noi Restiamo, abbiamo indirizzato una lettera alle istituzioni chiedendo la messa in campo di alcuni strumenti, per l'appunto tra cui il blocco degli sfratti, strumenti di sostegno agli inquilini e l'abolizione dell'articolo 5 che penalizza fortemente anche per l'accesso agli strumenti a reddito chi non abbia una residenza regolare. Inoltre, in connessione con la campagna nazionale Vogliamo Tutto, abbiamo messo a disposizione uno sportello telematico e telefonico da cui si evince che in qualche modo lo sciopero degli affitti si sta già dando nella materialità delle cose, perché chi non è in grado di mettere insieme il pranzo con la cena e pertanto di pagare l'affitto e le bollette, si trova a dover affrontare la situazione autonomamente. Abbiamo potuto osservare che chi si relaziona con i piccoli proprietari stia riuscendo in qualche modo a concordare delle autoriduzioni. Dunque, osserviamo come la contrattazione privata si stia, in qualche modo sostituendo a uno Stato assente. Chi invece si trova a che fare con i grandi proprietari si ritrova in una situazione ancora più complicata e stiamo infatti insomma, ricevendo testimonianze rispetto a questo di gruppi di inquilini che si organizzano per fronteggiare la situazione. Per questo, insomma, pensiamo che sia lecito ritenere che questa crisi porterà ad una impennata degli sfratti, perché l'onda lunga della situazione economica che si produrrà non potrà che avere un impatto su questo importante settore. Pertanto riteniamo che le questioni reddito e affitti vadano trattate insieme e per questo stiamo chiedendo l'allargamento della platea degli strumenti di reddito che sono essenziali per poter tirare avanti, il blocco a lungo termine dei rilasci, non solo quelli già programmati, ma quelli futuri che si produrranno in conseguenza di questa crisi. E infine c'è un piano di mobilitazione che ci vede già attivi e attive all'interno della settimana dal 25 aprile al 1 maggio e che speriamo possa avere ulteriore seguito nelle settimane e nei mesi sicuramente difficili che ci troveremo davanti, costruendo piattaforme sempre più larghe, che sia sui territori che a livello nazionale ci consentano di rivendicare con forza casa, reddito e dignità per tutti e per tutte. Quindi la storia ci dice che da una parte si può fare, dall'altra che si deve fare, cioè che queste crisi una dopo l'altra non possiamo più continuare a pagarle noi. Un esempio recente e anche molto forte, sia come impatto sia come organizzazione, è il movimento PA, cioè la piattaforma per le persone colpite dai mutui, nato a Barcellona e poi allargatosi in tutta la Spagna, che nasce inizialmente per contrastare la legge spagnola sui mutui, definendola questa legge non costituzionale. Infatti l'articolo 47 della Costituzione spagnola afferma chiaramente che tutti gli spagnoli, aggiungo io le spagnole, hanno il diritto di godere di alloggi decenti. Negli anni 80, per pagare un mutuo di una casa in Spagna, ci si impiegava 10 anni. Solo 2 decenni dopo, quindi circa nel 2000, le banche facevano mutui lunghi oltre 50 anni, cioè molto più lunghi se pensate di una vita lavorativa, quindi proprio un'ipoteca appunto. E nonostante queste lunghissime ipoteche, il prezzo degli alloggi tra il 95 e il 2007 aumenta del 265%, mentre i salari medi reali diminuiscono del 10%. È così che circa a metà del 2006 un gruppo che per il diritto alla casa, che si chiama Vi come Vivienda, nato sempre a Barcellona, si diffonde in tutta la Spagna, di fatto denunciando la bolla immobiliare e chiedendo la fine della violenza speculativa. Nel 2008, però, quando la bolla immobiliare scoppia drammaticamente, la strategia di questo gruppo deve per forza ripensarsi velocemente, perché in questo scenario non è più solo la lotta per un alloggio decente a essere centrale, ma anche la lotta contro gli sfratti, cioè la perdita della casa da parte di migliaia di persone. Così nell'ottobre di quell'anno, sotto lo slogan "Non lasceremo che le banche ci buttino fuori di casa", nasce un nuovo movimento che di fatto si origina da Vi come Vivienda e che è PA, la piattaforma appunto per le persone colpite dall'ipoteca, dai mutui. La composizione di PA è estremamente trasversale e prevalentemente fatta di famiglie e persone coinvolte nei processi di sfratto, no? A fronte della stretta sui mutui. La PA quindi si organizza fin da subito in assemblee aperte in cui chiunque può venire e raccontare il proprio caso e anche chiedere aiuto. Le persone, diciamo, si avvicinano inizialmente con un forte senso di colpa, vergogna e frustrazione, e questo è un po' il primo ostacolo che si trova a dover fronteggiare questo movimento. Quindi fin da subito PA cosa fa? Da una parte soddisfa i bisogni che le amministrazioni non stanno coprendo, fornendo quindi strumenti per difendere il diritto alla casa, e dall'altra combatte i preconcetti di una cultura della proprietà oramai incarnata nel sociale. Con queste premesse, tutte le piattaforme legate a PA, che sono cresciute, nate in diverse città, diventano velocemente molto ampie, anche perché il numero, dicevamo, delle persone colpite cresce con il peggioramento della crisi. E così il movimento piano piano incomincia a ricevere una forte copertura mediatica. Probabilmente uno dei momenti in cui questo movimento si struttura ulteriormente è quando lancia l'ILP, cioè un'iniziativa legislativa popolare, un decreto per mitigare la situazione degli sfratti, che di fatto ha significato innescare all'interno di tutte le piattaforme PA della Spagna un processo collettivo con un obiettivo molto chiaro. Questo da una parte ha isolato il partito di allora al governo, che era il PP, cioè il partito di destra, anche perché molti dei suoi stessi elettori avevano cominciato a far parte di PA perché versavano in situazioni di forte crisi. Dall'altra, questo processo ha trasformato un soggetto che si identificava come vittima in un gruppo ampissimo di attiviste e di attivisti organizzati. Nesfuna, nesfumbula man lilim bitti. isikhohlwe mani sibonwe ebantwini ebantwini ebantwini ngiqhizi nje kanjengobantwini emini njaye ibhama ebusuku ngifuna ibhambami ibhambami ibhambami siyazi vele imnandi imnandi udlula ipipi ngikhwebhe ngqubi ipipi ubi ubi anke lume babazi bayibayi budalam sandasam titi ngiyangikhumbula besilala esikantshini kwathina ngenye imini besilele esikhathini ithala lasibhakwa besidlale ekhishini sukele kuseni kwaphela emini ngiyangikhumbula besilala esikantshini kwathina ngenye imini besilele esikhathini ithala lasibhakwa besidlale ekhishini sukele kuseni kwaphela emini Il terzo contributo che ci ascoltiamo insieme viene dal sindacato Asia USB Roma. Ciao a tutte, sono Maria Vittoria di Asia USB e di Roma. Vi racconto un po' quello che stiamo facendo, quello che sta accadendo nelle nostre periferie. Io mi muovo soprattutto nel versante est Torbella Monaca e nel sesto municipio dove appunto vivo. Abbiamo in questo momento tanti problemi legati soprattutto appunto all'impossibilità per tante famiglie di poter pagare l'affitto, ma questo ormai è un dato comune in tutta Italia. Per questo motivo appunto abbiamo messo in piedi innanzitutto una piattaforma di rivendicazione dove stiamo convincendo le persone che non possono a non pagarlo, a scioperare, e stiamo rivendicando come sindacato, come Asia USB, il blocco degli affitti. Abbiamo scritto per questo anche al governo e delle utenze, perché il problema chiaramente è tutto collegato, insomma se manca il reddito non si può pagare nulla. Ma il problema e forse il punto centrale di questa campagna sugli affitti è proprio, oltre ad oggi, è il dopo. Questo momento ci consente anche di rimettere al centro la funzione della casa non come elemento, diciamo, secondario, ma è l'elemento centrale per vivere serenamente. Guardate, anche chi vive in una casa popolare in questo momento ha problemi, per assurdo, ma a differenza di chi vive in una casa privata, quantomeno può essere un po' più sereno, perché comunque non, come dire, esiste la possibilità di trattare comunque con la pubblica amministrazione. Con il privato ovviamente non si tratta, perché il privato nel momento in cui non paghi l'affitto ti avvia le procedure di sfratto. Quindi questo è un momento in cui noi stiamo spingendo proprio per questo sciopero, perché crediamo che sia fondamentale riuscire a creare tanta solidarietà, a creare un gruppo importante di persone, di affittuari, di studenti, lavoratori, che appunto insieme ai tanti compagni con cui stiamo portando avanti questo percorso mettano al centro dell'attenzione e della discussione anche per il futuro la funzione dell'edilizia pubblica. E questo per noi è fondamentale, perché appunto ci consente di spezzare anche quei meccanismi che in un momento di crisi come in questo momento però dimostrano quanto avere la tranquillità di una casa sia comunque fondamentale e in qualche modo consenta di essere un po' più forti nell'affrontare le tante difficoltà quotidiane, che in questo caso sono determinate dalla pandemia, purtroppo, che prima o poi passerà, ma più in generale dalle difficoltà che comunque ci troveremo anche dopo, così come ci sono state anche prima. E buona lotta a tutti e continuiamo le nostre battaglie. Quindi anche qui, no, la centralità, come in altri campi, l'abbiamo visto soprattutto, abbiamo, diciamo, riscoperto in questi ultimi due mesi, l'importanza, no, di tornare con forza all'edilizia pubblica, cioè alla sua funzione. Il sistema però dell'edilizia pubblica, che è stato istituito a metà del XX secolo, poco prima o dopo a seconda dei paesi, è stato smantellato e privatizzato, come dicevamo prima, per appunto far posto alla finanziarizzazione dell'edilizia e alla proliferazione del debito attraverso questi prestiti immobiliari. Però, per quanto i sistemi di pubblica utilità, ovvero di edilizia sociale, siano diversi da paese a paese, sono tutti nati originariamente per offrire appunto un'alternativa alla fornitura di alloggi basata sui prezzi di mercato. Uno dei modelli, diciamo, che ha smantellato il sistema dell'edilizia pubblica è stata la politica del cosiddetto diritto all'acquisto, che è nata non a caso nel Regno Unito negli anni '80 e poi è stata esportata gioiosamente in molti altri paesi. Questo ha voluto dire che appunto il patrimonio immobiliare pubblico sociale è stato venduto agli inquilini che vi abitavano, rendendo così l'inquilino il proprietario individuale della casa e trasformando, diciamo, lo stato dei lavoratori nello stato dei proprietari. Per contrastare un po' questo fenomeno, diciamo che negli ultimi anni abbiamo visto, conosciuto, partecipato a diverse azioni collettive antigentrificazione, agli scioperi degli affitti e a richieste di maggiori investimenti nell'edilizia pubblica statale. Queste lotte, direi, ci insegnano come il diritto alla casa, come quello appunto alla salute e all'istruzione, debba essere inteso come una forma di welfare universale per tutto, stabilita attraverso un programma pubblico di investimenti nella solidarietà. Шасы гейм кечем хали Сигучи ве Армани Дольче Габана Беш отаглы мен зелеп калы таваны Туланы пси винчля Лагы золу разы Орлам басыр газы Кыза залдыр назы Тойылды, уйылды, гоум mulardan ışlar atıldı şavaşlar zarılar almışlar göz ıştı ahızlar onu doldu belgelin meclise aşk gelir. Amenin boynuna inandım oyununa sarıldım boynuna iş verip canıma ben yiyen kanımla kölenim kanıma ben. Gözyaşlarımı sun saçlarım kurutsun ellerimden tutsun nedeni unutsun dertine bir vursun sen emek susam ben. Aldanıp evine gelmişken evine sevine sevine çevir. Ma torniamo all'impatto economico della pandemia Covid. Dicevamo, si sta sviluppando e organizzando in tante parti del mondo il rifiuto a pagare l'affitto in massa, i mutui e anche le utenze, perché ad aprile di fatto milioni di persone non potranno permettersi queste spese indipendentemente dal fatto che ritengano giusto o meno pagarle. E questa è l'inevitabile conseguenza di un sistema che, diciamo, non ci protegge, no? Di conseguenza un virus che si poggia, diciamo, su una crisi sociale decennale sta minacciando l'esistenza di molte persone. Per questo mi sembra di individuare che dentro tutte queste iniziative che si stanno organizzando, la cosa più urgente è, primo, difendere dallo sfratto chi non può pagare. Secondo, è un invito a non isolarsi, cioè a socializzare e politicizzare la propria condizione, contattando vicini, condomini, quartieri, gruppi o sindacati. Infatti è evidente che più persone partecipano, meglio si potrà contrattare con i piccoli e medi proprietari o contrastare, diciamo, i grossi proprietari insieme, e più forti si sarà anche davanti ai tribunali o ai governi che, diciamocelo, fino adesso hanno protetto, come dicevano i vari contributi arrivati, principalmente i privilegi dei ricchi. Però per entrare di più nelle pratiche materiali e le risorse collettivizzate che lo sciopero degli affitti in Italia sta organizzando, ho parlato con Camillo, che è una delle tante persone che in questi giorni si è mobilitata per il diritto alla casa. Sentiamo. Ciao Maddalena, provo a rispondere alle domande che mi hai mandato. Allora, come nasce il Rent Strike italiano? Il Rent Strike italiano nasce raccogliendo l'invito proveniente dalla Spagna e degli Stati Uniti a non pagare l'affitto per il mese di aprile, alla luce del fatto che con lo scoppio dell'emergenza del Covid-19 molte persone hanno perso il lavoro, sono andate in cassa integrazione o comunque più in generale hanno visto un'importante riduzione del proprio reddito. Inizialmente questo slogan, sciopero degli affitti, Rent Strike, si è articolato in una serie di rivendicazioni e di questioni anche molto diverse le une dalle altre. Alcuni hanno chiesto con forza al governo l'istituzione di fondi straordinari per il sostegno all'affitto, altri invece hanno preferito avviare delle trattative private con i propri proprietari di casa per ottenere una riduzione dell'affitto attraverso il cosiddetto modulo 69, che permette di rendere ufficiale ogni accordo e garantisce uno sgravo dal punto di vista fiscale per il padrone di casa nel momento in cui si accetta una riduzione. Altra questione molto importante ovviamente è quella delle bollette, le quali non solo sono sempre molto alte, ma in questo caso appunto diventa sempre più difficile pagarle. E l'altro grande problema è che nel caso delle bollette appunto si ha a che fare con aziende multinazionali con cui è impossibile instaurare un rapporto diretto. L'altra questione, anch'essa molto importante, è stata quella di chiedersi come finanziare degli eventuali aiuti su questo fronte, al che insomma si è cominciato a ragionare di fiscalità progressiva, in particolare dell'istituzione di una patrimoniale sui grandi redditi che permettesse appunto di sostenere degli aiuti strutturali per la società rispetto al tema dell'abitare e dunque rispetto al tema degli affitti. Allora, una delle cose che mi ha colpita molto della piattaforma Sciopero degli Affitti è la cassetta di strumenti digitali e non in uso. Cioè, in un certo senso, quell'ecologia di pratica a distanza a cui si è dovuto ricorrere in maniera molto forte, usando sia il digitale, ma non solo, lo vedremo poi, e come questa, in un certo senso, necessità, dovuta da una limitazione, no, abbia di fatto prodotto degli immaginari. Ovvero, in un certo senso, come si sia saputo rilanciare con forza anche dentro le limitazioni imposte. Quindi come si può fare con gli strumenti che abbiamo a disposizione? Penso per esempio a gruppi Facebook usati come pratiche di autocoscienza scritta, no? Dove il racconto a partire da sé ha rafforzato sia le istanze collettive, in quanto ha allargato le prospettive delle condizioni in essere e quindi anche le rivendicazioni possibili, sia i o le singole, nella misura in cui il confronto, no, con un gruppo più ampio, cioè uscire da te, ha permesso di trovare piccole soluzioni individuali ai propri problemi in corso. Ma continuiamo con Camillo. Per quanto riguarda l'organizzazione e la discussione dei problemi e delle tematiche a cui il rent strike, lo sciopero degli affitti, prova a dare una risposta, ci si è ritrovati innanzitutto su internet, in chat Telegram, in chat WhatsApp, all'interno di gruppi Facebook. Le piattaforme dunque sono state fin da subito molte e vi segnalo quelle che sono le più importanti: il gruppo Telegram Cancelletto Sciopero degli Affitti 2020, il sito internet scioperodegliaffitti.noblog.org e infine il gruppo Facebook Emergenza Affitti e Bollette Covid-19. Ciò che innanzitutto registriamo è che c'è stata un'immediata e massificata adesione e partecipazione a questi gruppi, che segnala come la questione dell'affitto e del pagamento dell'affitto e delle utenze sia un problema urgente all'interno della crisi che stiamo vivendo attualmente. Inizialmente le modalità di discussione avevano come obiettivo quello di costruire una narrazione collettiva attraverso la condivisione della propria situazione personale. In questo modo le persone hanno avuto la possibilità sia di sentirsi meno sole, ma anche di ricevere consigli e aiuti. È stata molto bella la dinamica per cui le persone autonomamente, una volta che entravano in queste chat, una volta che entravano in questi gruppi, hanno cominciato a darsi dei consigli, a riconoscersi in una medesima situazione, per quanto le situazioni siano a loro volta estremamente diversificate. Si è poi cercato di dare una mano e un'organizzazione un po' più strutturata attraverso innanzitutto alcune dirette Facebook che hanno cercato di stilare un elenco di consigli e di pratiche per poter condurre senza che ci fossero delle ripercussioni dal punto di vista legale questo sciopero, sfruttando in particolare l'unica cosa che è stata fatta dal governo, ovvero la proroga degli sfratti inizialmente fino al 30 di giugno, ad oggi fino al 1 di settembre. Dentro questo spazio si ha la possibilità appunto di astenersi dal pagamento dell'affitto per partecipare a questa mobilitazione, nell'attesa appunto che arrivino delle che arrivino delle soluzioni. Il secondo livello è stato invece quello di provare a costruire, a seconda delle molto diversificate situazioni, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista della locazione stessa e del tipo di contratto, molte persone, come si sa, vivono in nero, sia a seconda del tipo di proprietario di casa, se questo è un grande proprietario di casa o un piccolo proprietario di casa. Al fine di trovare una risposta, una soluzione comune alle diversissime situazioni e problematiche che stanno vivendo oggi gli inquilini e al fine di dare un coordinamento territoriale e nazionale a Rent Strike, si è pensato di organizzare un'assemblea telematica a partire dal gruppo Facebook Emergenza Affitti e Bollette Covid-19, un'assemblea che si è svolta ormai 2 settimane fa, la quale ha visto un'importante partecipazione, circa 300 utenti connessi tra singoli e realtà organizzate, dunque collettivi, movimenti per l'abitare, sindacati degli inquilini. Il primo nodo intorno al quale si è discusso è quello della possibilità di un fondo straordinario per il sostegno all'affitto in questo tempo di crisi. Solitamente siamo abituati al fatto che quando arriva una crisi, lo Stato istituisce dei fondi con cui saldare i debiti contratti durante la crisi, appunto dai cittadini nei confronti dei privati, nel nostro caso con i padroni di casa. L'obiettivo è stato dunque quello di, innanzitutto, di disarticolare questa dinamica, provando innanzitutto a porre una distinzione tra piccoli e grandi proprietari di casa, non tanto in base alle proprietà, quanto in particolare in base al reddito, per il fatto che appunto tante volte i grandi proprietari di casa si servono di prestanome o di proprietari intermedi per appunto poter ottenere degli sgravi dal punto di vista fiscale. A tal proposito, ci si è ritrovati intorno alla proposta secondo la quale, nel momento in cui vengono istituiti dei fondi pubblici, questi devono essere utilizzati solo nei casi in cui l'affittuario si trova presso un piccolo proprietario di casa che riesce a dimostrare che il proprio reddito ha avuto un'importante compressione e dunque ricevere questi fondi, i quali tuttavia devono comunque garantire la tranquillità dell'affittuario a cui deve essere appunto garantita una riduzione quantomeno del 50%. Nel caso in cui il proprietario di casa ha un reddito molto elevato, in questo caso non vengono dati dei fondi, ma si opta solo ed esclusivamente per una riduzione almeno del 50%. E a proposito della distinzione tra piccoli e grandi proprietari, a Milano il portale Off Topic ha risposto a una chiamata del comune di Milano che appunto cercava appartamenti vuoti per far fronte alla crisi abitativa in città durante la pandemia, presentando attraverso questa infografica molto interessante tutti i 6.489 appartamenti su Airbnb in questo momento vuoti e attualmente disponibili. La mappa proviene da un sito che si chiama Inside Airbnb, un progetto dipendente che ogni giorno registra i dati che provengono da Airbnb e li rende di fatto accessibili a tutti, quindi ci consente di esplorarli effettivamente, li mette in chiaro, no? E ci fa capire anche, cosa che Airbnb, diciamo, nasconde, come funziona questa piattaforma nelle città di tutto il mondo. Per esempio, navigando Inside Airbnb, si scopre che non sono i piccoli proprietari a usare maggiormente la piattaforma, che è un po' il motivo per cui teoricamente Airbnb sostiene di nascere, no? Ma sono i grandi proprietari o le agenzie immobiliari che hanno a disposizione decine di appartamenti in diverse città a usare di più questo servizio. Sulla home del sito, di questo sito di cui vi parlo, si legge: In che modo Airbnb viene realmente utilizzato e influenza i quartieri della tua città? Airbnb afferma di far parte della sharing economy e di sconvolgere il settore alberghiero. Tuttavia, i dati mostrano che la maggior parte delle case in affitto su Airbnb, nella maggior parte delle città, sono case intere, molte delle quali vengono affittate tutto l'anno, spesso da immobiliaristi, distruggendo quartieri e città. Ora continuo con Camillo. Altro punto molto importante è quello delle utenze. Nel caso di luce, gas, internet e acqua, la situazione è molto diversa da quella precedente, in quanto le aziende che lo gestiscono solitamente sono delle multinazionali. Per cui qui la rivendicazione è molto semplice, visto che siamo in un momento di crisi, in un momento di estrema difficoltà, e a tutte e tutti vengono richiesti importanti sacrifici, sia da un punto di vista del reddito, sia dal punto di vista della propria mobilità, della possibilità di incontrare altre persone, ma soprattutto dal punto di vista economico, anche queste grandi multinazionali, anche queste grandi aziende, tante volte anche responsabili di quella che è l'attuale crisi climatica che si sta vedendo attualmente, avere delle importanti relazioni con l'incidenza e la forza che ha questo virus di garantire appunto un blocco totale delle bollette. Siamo convinti infatti che gli amministratori delegati di Enel e di Eni sicuramente non patiranno la fame se per due mesi appunto vedono i propri introiti diminuiti, visto che sono aziende che negli anni hanno mostrato degli utili, hanno ottenuto degli utili sempre crescenti. Thank you. find solace in the privilege to pursue. Most people are crushed into servitude. Un altro aspetto davvero interessante è che la piattaforma Sciopero degli Affitti rivolge una forte attenzione alla relazione tra inquilini e quelli che vengono definiti piccoli proprietari, cioè persone in carne ed ossa, non multinazionali, no? E questo ha l'obiettivo di unirli per far pagare alle banche la crisi e non alle persone. Per esempio, su uno dei tanti volantini si leggono alcuni consigli per affrontare il o la proprietario di casa, che suonano così. In Italia molte abitazioni sono di proprietà di privati, ma questo di per sé non significa che non si tratti di speculazione immobiliare. In un momento in cui tutti stiamo soffrendo una contrazione del reddito, l'unico modo per sopravvivere è socializzare e collettivizzare i costi della crisi. Se il tuo proprietario usa il tuo affitto per pagare un mutuo, fagli presente che può richiedere una sospensione del mutuo qui, e in allegato c'è un modulo. Se lui può non pagare, non dovresti pagare nemmeno tu. Se il tuo proprietario usa il tuo affitto come fonte di reddito, proponi una riduzione dell'affitto per venire incontro alle tue necessità con questa lettera. Link alla lettera. Ci stiamo accorgendo che i piccoli proprietari sono spesso i più disponibili a trovare un accordo, mentre spesso i palazzinari proprietari di molti immobili si rifiutano di contrattare utilizzando la difesa dei piccoli proprietari come paravento. Non farti fregare. Ultima questione discussa dall'Assemblea è quella relativa agli strumenti con cui finanziare eventuali strumenti per il sostegno all'affitto. L'Assemblea si è di fatto trovata unanime nel chiedere un ripensamento complessivo della fiscalità attraverso l'introduzione di una tassa patrimoniale sui grandi redditi dal respiro europeo. Questo perché bisogna evitare a tutti i costi che ogni azione messa in campo per dare una mano, per dar sostegno a chi in questo momento vive importanti difficoltà, non debba tramutarsi in un ulteriore accrescimento del debito pubblico, il quale sappiamo benissimo porta nei momenti successivi ad azioni di questo tipo a tagli per recuperare il debito a tutti quei servizi essenziali che abbiamo visto essere strategici e fondamentali nel momento in cui si scatena una pandemia. Pensiamo in particolare al sistema sanitario nazionale, il quale ha faticato moltissimo nel resistere a questa crisi proprio per i tagli che si sono avuti con la crisi precedente, con la crisi del debito. Un altro aspetto centrale, come dicevo all'inizio, è come il distanziamento fisico non corrisponda a un distanziamento sociale, no? Ovvero osservare quelle tecniche adottate per coinvolgere i vicini, il quartiere, a mobilitarsi e a non sentirsi soli. Quindi, da una parte, diciamo, lo sviluppo di strategie offline anche potenti, dall'altra, e a maggior ragione adesso che entriamo nella fase 2 con, mi pare, poche certezze, la necessità di porsi la questione del contatto nella vita reale e nello spazio fisico in, diciamo, insieme a tutti i dilemmi etici, medici e logistici che ne possono derivare. Quindi, pur riconoscendo l'urgenza del distanziamento fisico, come si fa a evitare che le misure di isolamento e di quarantena imposte dallo Stato diventino strumenti di smobilitazione politica? Per esempio, cosa vuol dire normalizzare la quarantena attraverso questa autocertificazione che non sembra dileguarsi mai come strumento, e quali sono le nostre possibilità d'azione e di lotta davanti a uno Stato che sembra non volersi responsabilizzare davanti a una situazione di emergenza sociale collettiva molto forte, e che invece, appunto, come dicevamo, sembra continuare a proteggere, a dare priorità ai grossi capitali e a questi ritmi produttivi che devono ripartire subito, invece di prendersi un tempo per ristrutturare coraggiosamente il welfare attraverso misure concrete sul diritto alla casa, alla salute e all'istruzione. Resta ancora un ultimo nodo da sciogliere, ovvero quello relativo al problema della forte individualizzazione e isolamento a cui è soggetto purtroppo ogni forma di protesta che si dà solo ed esclusivamente nello spazio virtuale, nel momento in cui è ancora impossibile scendere in piazza e organizzarsi incontrandosi gli uni con gli altri. Dunque si è pensato, oltre a continuare ancora le campagne di informazione, a continuare a organizzare dirette Facebook in cui dare consigli per portare avanti il proprio sciopero e tutelarsi al meglio, di muoversi nello spazio della prossimità, invitando in particolare i membri di questi gruppi, di queste chat, a scrivere delle lettere ai propri vicini di casa, a far sapere loro che questa situazione è vissuta da tanti, che ci sono ad oggi delle possibilità per tutelarsi e poter portare avanti lo sciopero degli affitti, e in particolare fare in modo che chiunque stia pensando a come non pagare il canone possa percepire un coinvolgimento collettivo. E quindi organizzandosi per quartieri, ma anche organizzandosi per condomini. Punto di ricaduta di questo lavoro sotterraneo che si sta dando in queste ore, in questi giorni, ovviamente sarà maggio. Innanzitutto i movimenti spagnoli, inglesi e statunitensi hanno già individuato il mese di maggio come spazio su cui estendere lo sciopero degli affitti, cosa resa necessaria dal fatto che, nonostante si stia entrando nella cosiddetta fase 2, nella fase di convivenza con il virus, sappiamo benissimo che i redditi delle persone, dunque le loro possibilità di sostentamento, non miglioreranno, ed anzi, attraverso lo sciopero degli affitti, partecipare ad un mese di sciopero, quello di maggio, in cui rendere evidenti quelle che sono le contraddizioni e le fortissime diseguaglianze che la crisi del Covid-19 ha portato di fatto ad inasprire. Per cui l'invito che facciamo è quello di partecipare allo sciopero degli affitti, di farlo serenamente, perché gli sfratti sono prorogati fino al primo di settembre, di iscriversi ai gruppi, alle chat Telegram, dove le persone possono trovare una comunità di riferimento e di sostegno per portare avanti lo sciopero, ricevere consigli e trovare tutte e tutti insieme delle soluzioni all'altezza di questa crisi. Delle soluzioni che non prevedano assolutamente il fatto che i soldi pubblici, i soldi delle nostre tasse, vengano spostate nelle tasche dei privati, e che dunque questa crisi non venga pagata ancora una volta da tutte e tutti noi che, appunto, in questi anni non abbiamo ricevuto nulla per il lavoro e per gli sforzi che sono stati fatti e che anzi con l'arrivo della crisi hanno visto fortemente diminuire le proprie possibilità di vivere serenamente e di vivere in maniera dignitosa. Io vi ringrazio per lo spazio che ci avete offerto, per qualsiasi cosa fate riferimento ai siti, al sito internet che vi ho detto all'inizio di questa chiacchierata e al gruppo Facebook Emergenza Affitti e Bollette Covid-19. Io sono Camillo, grazie. E a proposito di questo maggio caldo, in chiusura volevo parlarvi di una chiamata sul 1° maggio proprio che arriva dall'America e che per me ha un po' la capacità di tenere insieme, diciamo, la complessità del momento senza cadere per esempio nelle dicotomie che invece stanno occupando tante le discussioni che leggiamo tra compagni e compagni. Per esempio quella tra complotto versus responsabilità collettiva o libertà versus salute comune. La call si chiama, e la trovate anche sul sito, We Are the Shutdown, e il 1° maggio decidiamo noi ciò che è essenziale. Questa chiamata comincia così: unisciti allo sciopero nazionale e protesta per dare la priorità alla vita umana rispetto all'economia. Unisciti alle migliaia di persone negli Stati Uniti già in sciopero degli affitti e organizza una manifestazione automobilistica, qui avrei suggerito in bicicletta ma vabbè, per chiedere alla tua che la tua città annulli l'affitto. Siamo più forti insieme. Gli operatori sanitari che hanno bloccato la manifestazione anti-lockdown e gli operai della General Electric che hanno lasciato il lavoro chiedendo alle loro fabbriche di iniziare a produrre ventilatori sono l'inizio di uno sciopero in corso a livello globale. Il 1° maggio in ogni luogo di lavoro, quartiere, casa, ci uniamo a questo sciopero determinando quali parti della nostra vita sono indispensabili e come possiamo soddisfare al meglio le nostre esigenze. Da quel giorno in poi continueranno solo le attività che riteniamo essenziali. In sintesi, mi sembra questa una chiamata appunto che tiene insieme la cura collettiva, che poi è anche un tema di consenso, no? Che dovremmo affrontare una volta riaperto tutto molto relativamente in sicurezza. Per esempio, come tutelo il mio distanziamento se sono l'unica persona responsabile di una madre o signora anziana. Poi tiene insieme anche la verità del virus e della pandemia, cioè non è un complotto. Inoltre ha una fortissima spinta all'allargamento delle lotte, no? Attraverso questo affiancamento di lavoratori e lavoratrici oggi e anche ieri e anche domani nelle catene di produzione e riproduzione più a rischio in questa emergenza. E infine mi pare capace di farsi la domanda principale, ovvero: ma che cos'è essenziale? Cioè, se non vogliamo tornare alla normalità, a cosa possiamo rinunciare e a cosa e cosa dobbiamo ottenere? To your river, I will come to your river. wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul. I will come to you, river. Wash my soul again. Carry away my old leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those on me's so ashamed. Let the river take them. River, drown them. To your river, I will come to your river. I will come to your river. Come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul again. Io mi fermo qui con un invito: rifiutatevi di pagare la crisi, si può fare, organizziamoci. Grazie a tutti per l'ascolto e per chi di voi è su Radio Virus, rimanete connessi che dopo un po' di musica alle 9 parte, diciamo, la programmazione va avanti con Radio Tango. Ci vediamo ogni lunedì, mercoledì e venerdì, anzi ci sentiamo in questi giorni come sempre con la radio di Non Una di Meno Milano, il giovedì con le ribelle di Zam sempre alle 7 e rinnovo l'invito a contribuire con audio inviati sulla mail che è nonunadimenomilano@gmail.com, seguirci sui social che sono nonunadimenomilano_o_ e infine vi segnalo anche che abbiamo un canale Telegram che è t.me/nonunadimenomilano. Ciao. You Cura. Sono Tupac Shakura. Troia muta. Se no vieni punta. Ape. Pape. Ape. Pape. Sulape di papa. Sulape di papa. Ratatatatata. Ratatatatata. Sulape di pacia di tutua. Dall'ape di palancio frecce. Schiaccia ste merde. Fa culo la legge. Fa culo le guardie. Prendo e scappo con ape di pa. Ape di pa. Ta. Squaro Rodriguez. Giro tondo, sulla pe di papà, ho girato il mondo. Giro tondo, sulla pe di papà, ho girato il mondo. Sulla pe di pa, di papà. Sulla pe di pa, di papà. Sulla pe di pa, di papà. Sulla pe di pa. Di papà. L'ape di papà non è mai vecchia. Sull'ape di papà tutta la merce. L'ape di papà non è mai vecchia. Sull'ape di papà tutta la merce. Cheia de tensão, bacanal, eu caralho, eu quero ver disposição. Bate uma punheta. atenção, bate uma punheta, chupa minha buceta, lambe com assim, lambe, lambe, que eu tô cheia de tesão, bacanal, é o caralho, eu quero ter disposição, solta essa porra. Like a disease, hold it tight to my body. You can't ride what not belongs to me. You try, you die. I dare you try. Find us, keep us, I take a mess I like. Guard it with your life. Find us, keep us, I take a mess I like. Guard it with your life. Find us, keep us, I. Find us, keep us, I. Find us, find, find us, keep us, I take a mess I like. Find us, keep us, I. Find us, keep us, I. Find us, keep us, I love to be on. Pinky finger up, golden arm. Bust a two-step in a tight dress, got their attention. Hands in the air, get them wrapped around. Hold them tight to suffocation. I get what I need, if not, has to free. I'm a hustle. Big hitter, babe, cause heavy gets ahead. That wears a crown. I'm knock shit down and fuck things up. With stereo part and reverse. Better back up, grab my cum. What it do, what's up? I found pickpockets for what you got. No matter how tight I squeeze and nudge, get it in like double D in the beat cup. Grab my titties, screaming, fuck your luck. No clover in my rover, that's not how I roll. I push and shove to get my point across. No sugar coat, none of that crushed up. I tell the truth with my fingers crossed. Tight to my goal, so much truth with a lie. Got my sticky hands in the jar, like all cookies off of me. I'ma get it, got it. No matter, big up my hungry belly. Tight to my heart, you can't break what now belongs to me. You try, you die. I dare you try. Find us, keep us, I. Take a mess, I like. Got it with your life. Find us, keep us, I. Take a mess, I like. Got it with your life. Find us, keep us, I. Find us, keep us, I. Find us, find, find us, keep us, I. Take a mess, I like. Find us, keep us, I. Find us, keep us, I. Find us, find, find us, keep us, I. Love to Leon. Throw them bows, show knuckles. Still with my finger dressed in gold. Love it so. Where all things go, I'm a freak about my control. I'm a creep around, get what I deserve, I don't at all. Claim my rights, I'll do you wrong. Find us, keep us, I. Find us, keep us, I. Find us, find us, keep us, I. Find us, keep us, I. Take a mess, I like. Got it with your life. socialize around. Meet the wrong guy, room say hi, say why. Socialize around. Meet the wrong guy, room say hi, say why. Mango, malala, malala, malala, lama, elama, ela, laimala. Get into the fire, to the fire, to the fire. Get into the fire. Straight down the middle, to the fire, to the fire. Sarebbe bello però che un ragazzo mi vedesse nuda per la